9 in punto. Di nuovo buona giornata, cari ascoltatori, da Simone Spezia. A proposito del lancio che abbiamo fatto prima della trasmissione, già ci fa notare Daniele Bailo via Twitter: in Italia non esistono settimane decisive. Insomma, anche questo è vero, c'è una notazione della quale dobbiamo prendere atto, però insomma, questa per l'Ilva apparentemente appunto è una settimana decisiva, più che altro perché il GIP dovrebbe decidere sul dissequestro dei materiali, dei prodotti finiti. Di questo discutiamo oggi, ancora della vicenda Ilva, che è, come sapete, ancora una delle grandi emergenze industriali di questo paese. Saluto innanzitutto Mariano Maugeri, che è inviato del Sole 24 Ore e che è stato a Taranto lungamente nella parte, nei momenti più caldi. Mariano, buongiorno. È in studio con noi. Saluto anche Vincenzo Cesareo, presidente di Confindustria a Taranto. Buongiorno Cesareo. E inizierei però dalla parte governativa. Abbiamo qualche minuto in apertura di questa trasmissione con il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno. Vorrei iniziare da quello di cui parlano i giornali oggi, notizia che si è diffusa ieri, ma naturalmente ne sarete a conoscenza dopo il lungo vertice di venerdì. Questo Lodo Vendola è stato chiamato, insomma, l'idea che l'azienda presenti istanze di sequestro dei prodotti finiti, precisando a cosa servirà la vendita di questi prodotti, ossia a pagare gli stipendi e a ottemperare a quelle che sono le prescrizioni dell'AIA. E dice Vendola: non agiamo con un altro decreto, per carità. Lei come la valuta questa ipotesi? Io spero che non sia necessario adottare un altro provvedimento. Quello che dice il presidente Vendola, devo dire, corrisponde esattamente a quello che ha detto anche il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante, nel senso che il presidente dell'Ilva ci ha detto durante la riunione che abbiamo avuto venerdì sera che Ilva ha bisogno delle risorse che derivano dal dissequestro dei prodotti finiti per finanziare gli investimenti per il risanamento ambientale che abbiamo prescritto con l'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre, e ha anche detto, e lo hanno confermato ieri in un comunicato, che queste risorse sono anche necessarie per assicurare il pagamento degli stipendi, per cui sostanzialmente la posizione del presidente Vendola è esattamente quella che è stata rappresentata dall'azienda nel corso della riunione di venerdì sera, e che peraltro ha portato alla fine dello sciopero, alla conclusione dello sciopero che era in atto dentro lo stabilimento. Ministro, lei ha detto che spera che non sia necessario un nuovo provvedimento, però teme che sia necessario? Cioè, nella riunione di domani del Consiglio dei Ministri dovrete varare qualcosa di nuovo? Quello che io temo è che soprattutto persista una sorta di conflitto da parte della magistratura nei confronti della magistratura di Taranto nei confronti della legge. Io ho lavorato in tutti questi mesi evitando sempre accuratamente di aprire conflitti, perché non credo che questa sia la strada. Abbiamo rinunciato come governo nel luglio scorso ad aprire un conflitto di attribuzione. Nell'autorizzazione integrata ambientale che ho rilasciato ho recuperato le prescrizioni che la GIP di Taranto, la dottoressa Todisco, aveva dato per il risanamento ambientale dell'impresa, perciò incorporando di fatto i contenuti dell'iniziativa della magistratura di Taranto nel provvedimento che autorizza l'impresa ad esercire gli impianti. E io mi auguro che si riesca a raggiungere un punto di equilibrio e di collaborazione. Mercoledì sono a Taranto per incontrare le autorità locali, oltre che per incontrare l'impresa e le organizzazioni sindacali, e ho invitato all'incontro anche la Procura della Repubblica di Taranto, perché io sono convinto che gli obiettivi della magistratura di Taranto siano gli stessi sui quali stiamo lavorando, perciò mi auguro in una collaborazione. E ci sarà la procura di Taranto, immagino, sì, cioè gli hanno confermata la presenza. Io spero di sì. Io li ho invitati, mi auguro che possano partecipare. Io ho già incontrato il procuratore della Repubblica, io anche in pubblico ho sempre sostanzialmente dato questa apertura e questa disponibilità. C'è stata sicuramente una forzatura e una strumentalizzazione politica locale che ha cercato di divaricare sostanzialmente le posizioni del governo da quelle della magistratura. Io continuo a dire che esistono tutte le condizioni per una proficua collaborazione. E chi è che ha strumentalizzato, Ministro? Ci sono stati in particolare questo gruppo che fa riferimento ai Verdi, che poi hanno perso le elezioni locali lo scorso maggio a Taranto, ma che hanno continuato a utilizzare tutte le possibili interpretazioni distorsive del lavoro in atto per creare una situazione di grande tensione e soprattutto per cercare incomprensione. Un'ultima domanda, Ministro, riguarda quello che farete domani, che io ancora non ho capito a questo punto. Allora, avete fatto il vertice venerdì, che è durato, come si diceva, fino alla mezzanotte, quindi un vertice lungo, intenso, con tutte le parti in causa. E poi per domani, da quel che ho capito, è convocato un Consiglio dei Ministri. Ma cosa deciderete in questo Consiglio dei Ministri, in sostanza? Il Consiglio dei Ministri di domani non è convocato sull'Ilva. Il Consiglio dei Ministri di domani è convocato su molti punti all'ordine del giorno. Ci siamo riservati anche di valutare l'evoluzione della situazione a Taranto ed eventualmente di assumere delle decisioni, ma al momento non abbiamo un documento o un provvedimento pronto. Ripeto, nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad una situazione rischiosa, nel senso che si potesse prevedere il blocco degli impianti con il rischio di con due rischi, da un lato ovviamente quello del conflitto sociale e dall'altro quello della possibilità che Ilva non possa applicare le prescrizioni per il risanamento ambientale perché non è entrata nel pieno possesso dei prodotti e degli impianti, in quel caso dovremmo valutare quale provvedimento assumere. Grazie al Ministro Clini per il tempo che ci ha concesso e buona giornata. Buona giornata a voi, buona giornata. E dunque ripartiamo da qua, ripartiamo appunto dall'intervento del Ministro e anche dai vostri interventi. Ci mandate già qualche opinione appunto via Twitter, ci dite, insomma, come dire, tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza, naturalmente, però insomma alcune suscitano qualche perplessità. Si deve confiscare, chiudere, dipendenti sostenuti dallo Stato, risanare, riattivare e vendere, non si può morire di lavoro. Come vedete, il tema continua a dividere. Io inizierei da Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, col quale farei prima di tutto e prima di entrare nel merito di una proposta molto interessante che è stata elaborata appunto da Confindustria, che è un ripensamento nella sostanza di quell'area ed è di fatto un ripensamento della città, inizierei proprio dalla situazione pratica, perché voi avete mandato anche un comunicato piuttosto allarmato nei giorni scorsi, segnalando come tra i vari elementi, la situazione dell'Ilva si sta ripercuotendo naturalmente su tutto l'ambiente circostante, in questo caso ambiente lavorativo, compresi gli autotrasportatori. Ce ne sono 400 fermi e uno che sta facendo uno sciopero della fame addirittura. Certo. Sì, devo dire che sostanzialmente la nostra preoccupazione, il nostro allarme lanciato tra l'altro nei giorni scorsi in una conferenza stampa di inizio anno di Confindustria Taranto, noi ribadiamo che in questo momento l'alternativa all'industria è la povertà e l'alternativa all'industria siderurgica, il cosiddetto piano B, noi in giro non riusciamo a intravederlo. Rischiamo di fossilizzarci e a parlare soltanto degli 11-12 mila dipendenti dell'IVA, che per carità di per sé sono già un numero abnorme per la nostra realtà, ma dimentichiamo poi l'indotto, tutto ciò che c'è a valle dell'indotto, compresi gli autotrasportatori, compresa la condizione del porto, degli operatori marittimi. Diciamo che un comparto industriale che incide da solo per il 75% del PIL della provincia ionica, per il 20% dell'export dell'intera regione, ha ragione di essere considerato nella sua interezza. Questo ci sta preoccupando molto, ci preoccupa molto vedere che nonostante Taranto sia stata oggetto di 3 provvedimenti legislativi nello spazio nazionale, nello spazio di una stagione, cosa per la quale mi sento di esprimere un sentito ringraziamento al governo nella sua interezza per l'attenzione che ha riservato alla vicenda Taranto, ma al tempo stesso mi sento anche di dire che se ne è stata riservata tanta attenzione, perché effettivamente Taranto risulta essere nel suo comparto industriale sostanzialmente strategico per il sistema paese. Di fronte a questo tutti ci interroghiamo su salute e lavoro, però risposte ne vediamo abbastanza poche. Per chi paventa chiusure complessive eccetera, non mi sembra di vedere alcun tipo di piano che sia meno di un'utopia, sostenibile in qualche modo da risorse finanziarie, da quant'altro, che possa essere portato avanti. Voglio arrivare appunto a questo progetto che voi avete presentato, che mi sembra interessante perché, lo dico molto chiaramente, è un tentativo di andare oltre tutta la questione puramente giuridica e tutta la questione che riguarda la bonifica, cioè tiene dentro anche la bonifica ma guarda oltre. Ci spiega brevemente, in 2-3 punti, parlate di una smart area, in cosa consiste? E anche là lei ci parla, Presidente, di idee utopiche per quanto riguarda l'Ilva. Una di queste è l'idea di nazionalizzare, che leggiamo da un po' di ascoltatori, ci arriva anche via SMS, e però voglio capire se l'idea che avete voi è altrettanto utopica. È chiaro che voi non la considererete così, però insomma ci dia 4-5 spunti. Noi sostanzialmente abbiamo raccolto le idee e siamo partiti da quello che abbiamo, in una logica, se mi consente, quasi troisiana. Abbiamo ricominciato da 3, nel senso che abbiamo messo insieme tutto ciò che di progettuale vi era già nell'ambito della vision di una Taranto futura, quindi una vision sostanzialmente con progetti per buona parte già depositati anche presso gli uffici comunali, alcuni di essi già sostanzialmente autorizzati. Siamo partiti di là per creare, sulla logica di smart area, che deriva sostanzialmente da quella logica di smart city che è stata promulgata anche da Confindustria Nazionale, abbiamo raccolto una serie di direttrici che vanno dallo sviluppo del territorio urbano, alla riqualificazione urbana, alla valorizzazione dei beni culturali, al turismo. Abbiamo creato un asse apposito che si chiama Green Road, in quanto già oggetto di un progetto che in qualche modo sta viaggiando già da un paio di anni nella nostra provincia, che significa collegare una serie di masserie, quindi sfruttare anche l'entroterra del nostro territorio per fini turistici, visto che le coste da sole non ci consentono di sviluppare adeguatamente il comparto turistico. Abbiamo messo tutti questi fattori, in qualche modo abbiamo considerato anche la diversificazione degli assi produttivi, perché da questa crisi Ilva probabilmente l'intero comparto industriale ha anche capito una cosa fondamentale, che indipendentemente da quelli che possono essere i cicli fisiologici di un'attività industriale, noi sappiamo che l'acciaio ha dei cicli abbastanza sinusoidali, indipendentemente da questo può succedere qualcosa che in qualche modo manda in tilt il sistema. Noi abbiamo capito che questo poteva crearci delle ulteriori difficoltà e in questo senso ci siamo organizzati e ci siamo attrezzati. Abbiamo in una logica squisitamente di accompagnamento a quelli che sono i soggetti istituzionali deputati al governo del territorio, abbiamo messo tutta una serie di questi progetti, ci siamo dati innanzitutto un sistema metodologico, abbiamo messo questi progetti in una logica di sistema, siamo sostanzialmente pronti, tant'è che nelle prossime settimane saranno presentati alle istituzioni locali affinché possano essere quindi condivisi e eventualmente accettati e portati avanti, e siamo pronti poi a metterci, abbiamo anche la possibilità di recuperare parte delle risorse finanziarie, altre riteniamo possano essere integrate da risorse comunitarie, visto che il progetto di Smart Area si inquadra in una di quelle assi di finanziamento previste dal sistema comunitario, e quindi di conseguenza siamo pronti ad andare in questa logica. Abbiamo, come si suol dire, preso la cassetta degli attrezzi e abbiamo cominciato ad attrezzarci per governare e gestire il nostro territorio. Ci scrive un ascoltatore sempre via Twitter, Giuseppe Arconso, dice: se l'Ilva non ha nemmeno i soldi per gli stipendi, come farà a trovare i soldi per bonificare? Beh, insomma, il punto mi sembra esattamente quello, e su quello Mariano Maugeri alla fine, insomma, potrà dire una parola definitiva il GIP oggi, quando deciderà sul dissequestro dei prodotti finiti, perché il punto è proprio quello, come diceva Vendola e come diceva anche il ministro del resto, no? No, credo che l'IVA abbia i soldi per pagare gli stipendi. Il problema è che se un miliardo di merce è immobilizzata da parecchi mesi sulle banchine del porto e quindi non può andare ai legittimi destinatari che l'hanno acquistata, senza un miliardo di liquidità evidentemente un'azienda è in difficoltà e quindi ha bisogno di sbloccare questa partita e si deve rimettere in moto il processo stabilito con la legge firmata da Clini e con la nuova AIA, affinché appunto si possa bonificare l'impianto e dentro 3 anni l'Ilva possa diventare una fabbrica, non dico pulita, ma decisamente meno inquinante di quanto non sia adesso. Sì, tra l'altro gli ultimi dati, quelli dell'ARPA Puglia, indicano che le prescrizioni dell'AIA stanno funzionando, perché in sostanza l'aria si è ripulita a tutti gli effetti. Beh, uno dei 4 altoforni è stato chiuso, come sappiamo, l'altoforno 5, che è il più grande d'Europa, sarà chiuso prossimamente, quindi c'è un cronoprogramma. Il ministro ha dato ampie garanzie e quindi c'è anche una nuova struttura commissariale che verificherà appunto il rispetto di queste regole. Mai come oggi l'Ilva e Taranto sono vicini a un punto, no, di conclusione di questa vicenda, che poi risale a 20 anni fa, quando arrivò Riva. Ma come sappiamo l'Italsider nasce a metà degli anni 60, crea il quartiere Tamburi, quindi ci sono stati una serie di gravi errori progettuali fatti proprio da quello Stato, che secondo qualche ascoltatore adesso dovrebbe intervenire. Il problema di questo paese, mi permetto di suggerire, non è l'intervento ancora più massiccio dello Stato, ma esattamente l'opposto. Lo Stato deve arretrare, anche perché non ha più risorse per intervenire. Claudio ci chiama da Isernia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi. Prego, e se ha la radio accesa la abbassi, perché sennò rientra tutto, rientra l'eco e tutto quanto, prego. Subito. Senta, praticamente quello che volevo dire, ho già ridetto, sto abbassando la radio, l'hanno già detto molti. Generalmente io non ho molta fiducia nella giustizia italiana, anzi nessuna, per averla provata sulla mia pelle. Ma come fa un giudice a bloccare su una ditta che è in crisi, che è obbligata a spendere dei soldi per rimodernare le proprie apparecchiature, fermo restando che in tutti questi 20 anni cosa hanno fatto i giudici per non imporre prima delle modifiche a sostegno della salute dei cittadini, che erano forse meno onerose di oggi? E per di più, che hanno fatto gli amministrativi che hanno fatto costruire, come succede anche con Radio Vaticana, le case a 200 metri da un punto pericoloso? Questo che io mi domando. Può il giudice bloccare in un clima marino dell'acciaio, che fra poco diventerà arrugginito e non vorrà manco il ferro vecchio? Questo mi domando. Come si fa? Come si fa? Che competenza ha? Il giudice deve avere competenza sulla giustizia. Claudio, chiarissimo, tra l'altro la stiamo perdendo. Sentiamo anche Marco che ci chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Mi sente? Sì, la sentiamo. Il ragionamento che ha fatto il signore adesso è assolutamente giusto e corretto. Dove erano i giudici, dove erano i politici locali, dove erano quelli regionali e dove erano quelli statali? Oltretutto, tenere lì quella roba lì, che è stato già oggetto di inquinamento, è la cosa più stupida che ci sia. Bisogna permettere all'azienda di vendere e al limite prendere un uomo con le palle, che può essere uno tipo Bondi, e fargli gestire il 1,2 miliardi e fargli gestire la ristrutturazione forno per forno, permettendo agli uomini di prendere lo stipendio, alle famiglie di vivere e all'azienda, che è un'azienda strategica, di andare avanti. Il comportamento dei giudici è assolutamente privo di responsabilità. Grazie per la sua posizione, Marco, e per la sua idea. Mi permetto di dire, insomma, al di là del concetto generale, probabilmente Bondi ha un sacco di cose da fare in questo periodo, insomma, appena finito di fare la spending review, almeno in parte, e adesso sta controllando o ha controllato le liste di Monti. Prima di andare con la pausa, voglio sentire anche una telefonata dalla provincia di Taranto, ed è Giacinto, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti. Esordisco dicendo innanzitutto che quell'acciaio è provento di atti illeciti, quindi se è sequestrato un motivo ci sarà. La seconda cosa, volevo polemizzare col ministro Clini, in quanto a me come ministro non mi dà nessuna sicurezza. Ricordiamo che è intercettato, anche, cioè nelle intercettazioni è descritto come uomo pro Ilva. Di fatto tutti gli atti che sta compiendo mi sembrano più a favore dell'azienda che della cittadinanza e della salute. Voglio anche ricordare che il ministro Clini ha negato sino all'ultimo momento i dati sulla mortalità e sulla malattia a Taranto. Ha anche querelato il presidente dei Verdi e quando si è visto allo scoperto non ha potuto far altro che ammettere i dati che erano la verità, insomma. 9 in punto. Intanto ci ha raggiunto Eligio De Mitri del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Buongiorno De Mitri. Buongiorno. Il gruppo più attivo nel sostenere in quello che, semplificando malamente, ve ne chiedo scusa, nel sostenere la salute versus il lavoro, De Mitri. Chiedo perdono se la semplificazione è così forte. No, mettiamo che più che la salute verso il lavoro, diciamo che mettiamo al primo posto la salute e conseguentemente il lavoro. Ecco, mettiamo così. Sono arrivate un paio di telefonate da ascoltatori poco fa, poi risponderemo anche a Giacinto che ci chiama da Taranto, abbiamo altre telefonate in linea all'800 24 00 24, ci sono arrivate un paio di chiamate dagli ascoltatori che dicono ma insomma santo Dio, ma c'era proprio bisogno di bloccare quel miliardo di euro di prodotti che si trova là e che potrebbe servire e che anzi serve alla stessa Ilva per mettere in atto la bonifica. E ancora la domanda che le faccio io, le prescrizioni AIA, proprio a proposito di questo, le prescrizioni AIA nel momento nel quale si è iniziato a rispettarle hanno portato chiaramente ad un miglioramento dell'area di Taranto. I dati dell'ARPA Puglia degli ultimi 3 mesi da questo punto di vista sono lampanti e dunque insomma questo sequestro dei materiali non preoccupa anche voi? No, allora facciamo un attimo di chiarezza. Allora, il sequestro dei materiali non è che era necessario, era fondamentale, in quanto è l'unico bene su cui la magistratura è riuscita a porre un controllo, visto che qualunque altro bene riconducibile all'Ilva è misteriosamente sparito da quando è iniziata tutta questa vicenda. Quindi proprio quei COIS sono l'unica garanzia sia per i lavoratori, per dal punto di vista della tutela del loro salario, ma soprattutto anche per l'eventuale avvio di bonifica, visto che rispetto al secondo punto, anche questo, i valori che ha rilevato l'ARPA, più che identificabili con l'avvio delle bonifiche, sono in realtà legati ai mesi in cui l'Ilva è stata sotto il controllo dei custodi giudiziari e quindi si sono avviate procedure di gestione degli impianti diverse da quelle che sono state fatte fino ad oggi, quindi l'abbassamento dei cumuli, dei cimi ridotti di marcia. In realtà delle prescrizioni dell'AIA è stato avviato poco e niente attualmente. E quindi io voglio capire dal lato del dissequestro dei materiali, io non ho capito perché lo ritenete anche voi così importante. Cioè, ci scrive un ascoltatore giustamente su Twitter, Andrea Franzini dice se l'Ilva chiude quel terreno non sarà mai bonificato da nessuno, e mi sembra il ragionamento ci possa stare. Il comitato non ha mai chiesto la chiusura dell'Ilva, noi abbiamo solamente posto un punto fondamentale alla questione: se l'Ilva deve continuare a essere polmone dell'economia di questo paese, deve farlo rispettando le leggi e non smettendo di inquinare e martoriare il territorio della città di Taranto. Quindi Una volta che gli impianti siano messi in regola e siano state attuate tutte le migliori tecnologie, perché quegli impianti possono lavorare senza ammazzare nessuno, l'Ilva può naturalmente tornare a produrre acciaio. Ma se non c'è questa volontà, se non si è mai visto una garanzia economica a fronte degli investimenti da fare, non si ha ancora oggi un piano industriale dettagliato su come procedere sugli interventi, non è stato chiesto all'Ilva di mettere nessuna somma a garanzia di quegli interventi, francamente ci sembra veramente quantomeno un atto di fide il fatto che l'Ilva possa effettuare gli interventi richiesti. Ecco, quindi quei COILS in realtà sono attualmente l'unica garanzia economica reale che i cittadini e i lavoratori di questa città hanno sul futuro sia dello stabilimento che della città. Togliere il dissequestro significa non avere più nulla, nessun bene riconducibile all'Ilva su cui potersi aggrappare per costringere l'azienda a rispettare gli accordi presi. Mariano Maugeri, volevi sì, intervenire? Sì, l'oggetto della disputa è la facoltà d'uso dell'impianto. I magistrati vogliono che l'Ilva bonifichi l'impianto senza farlo funzionare, cioè senza produrre acciaio. Il governo invece ha deciso che si debba bonificare avviando parallelamente la produzione. Com'è corretto che sia se si pretende che l'azienda finalmente, perché l'azienda in passato ha fatto degli errori clamorosi e non siamo certo noi a sottacerli, però adesso si è imposto all'azienda di investire 3 miliardi e mezzo. Come fa un'azienda a investire una cifra enorme, appunto così alta, se non può produrre, se non può mettere in moto gli impianti? Questa è la domanda. È una domanda che adesso le giriamo, Dimitri, però voglio sentire anche un altro po' di ascoltatori, perché abbiamo parecchie telefonate anche da Taranto. Innanzitutto Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, senta, ecco, io qui sento parlare di fiducia nell'azienda, il ministro. Io dico soltanto che Taranto è una città che ha dato. Sono poche le famiglie a Taranto che si possono vantare di non aver avuto problemi di salute al loro interno. Io penso che la rinascita di Taranto passi dalla chiusura dell'Ilva. Mancano i soldi, lo Stato ha sbagliato sia nella gestione che nella vendita dell'azienda. Io penso che i soldi possono arrivare per la bonifica del territorio, come è stato fatto quest'anno, aiutando il Monte dei Paschi di Siena. 4 miliardi sono stati dati al Monte. Io penso che la stessa somma possa essere, anzi debba essere data a Taranto per bonificare il territorio e per puntare su quella che è stata la chiave di successo nella regione Puglia, cioè il turismo. Quindi il territorio dell'Ilva deve essere bonificato sulle spalle dello Stato. È troppo facile parlare da Isernia, dal resto d'Italia, quando Taranto ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze di questo mostro. E io quindi ritengo che lo Stato debba farsi carico di questa bonifica. Tutto qua, vi ringrazio. Grazie, sentiamo anche Giovanni, anche lui ci chiama da Taranto, poi abbiamo anche ascoltatori da altre zone d'Italia, naturalmente, però ci interessava anche sentire appunto l'opinione di qualcuno che ci chiama da quella zona. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Prego. Allora, innanzitutto mi arriva un eco di sottofondo, spero che non sia il mio cellulare. No, non è il suo cellulare, noi la sentiamo perfettamente. Il ministro Clini era già dirigente del ministero anni fa e ha decretato la chiusura dell'area a caldo Ilva di Genova perché inquinante. Hanno trasportato a pie pari tutta l'area a caldo a Taranto. Adesso non vedo perché i genovesi debbano tutelare benissimo la loro salute e non i tarantini. Lo stesso Clini, che adesso difende non l'ambiente ma l'industria Ilva, mi sembra un tantino fuori luogo il suo intervento, da una parte. Dall'altra c'è il problema del lavoro, giustamente, degli operai Ilva, ma perché non si parla di coloro che coltivano i mitili, che hanno dovuto per questo motivo, per l'inquinamento Ilva, chiudere Giovanni, gli impianti. Giovanni, mi scusi se la interrompo, lei, insomma, capisco il ragionamento, mettiamola così, non si può paragonare l'industria dei mitili ad un'acciaieria di quelle dimensioni, insomma, ecco, con tutto il rispetto appunto per chi si occupa di allevamento o coltivazione dei mitili, adesso non so esattamente come si dica. Riprendiamo Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria a Taranto. Visto che le ultime due telefonate sono state, insomma, di due tarantini e favorevoli addirittura alla chiusura dell'Ilva, da segnalare come no invece per Giuseppe, ci chiamava da Taranto, tenga presente che al Monte dei Paschi, così come alle altre banche che hanno usufruito di strumenti simili in passato, i soldi non è che vengono dati gratis, insomma, sono delle obbligazioni che dà lo Stato e sulle quali le banche devono corrispondere un interesse. Posto questo, insomma, forse addirittura gli strumenti ci sarebbero. Le chiedo una risposta a questi due ascoltatori, Cesario. Sì, la risposta è sostanzialmente è quella che stiamo già esprimendo da diversi mesi come Confindustria. Noi siamo fra i primi che abbiamo richiesto un accordo di programma per l'area Taranto. Per quanto riguarda il discorso dell'ambientalizzazione, quindi dei coil sequestrati e quant'altro, noi riteniamo che un'azienda che venga di fatto deprivata della possibilità di porre in essere un sistema anche di garanzie verso il mondo esterno, verso quindi il sistema finanziario, visto che a Taranto oggi anche gli stessi lavoratori di Ilva hanno difficoltà a contrarre mutui, vista tante la situazione attuale. Questo non può consentire ad un'azienda di continuare la sua attività. In più, se si pensasse, e su questo voglio dire probabilmente non siamo perfettamente in linea con il movimento a cui faceva riferimento poc'anzi lei, se si pensasse di dover chiudere lo stabilimento, ambientalizzarlo per poi farlo ripartire, di fatto ci ritroveremmo con un comparto industriale che è già fuoriuscito da un mercato che sarebbe sostanzialmente tecnicamente impossibile riagganciare, a nostro avviso. Quindi di fatto la necessità che l'Ilva continui la produzione mentre si esplicano le attività di ambientalizzazione con un cronoprogramma che tra l'altro è completamente previsto nell'ambito della legge e anche con la garanzia, tutto sommato mi sembra che il garante nominato dal governo sia una figura istituzionale di altissimo rilievo, per cui ritengo che possa essere sicuramente quello che è l'elemento di garanzia perché si possa coniugare finalmente le condizioni di lavoro con le condizioni di salute dei cittadini. Tutto questo, il discorso di una chiusura, di avviare delle bonifiche, i 4 miliardi a cui si faceva riferimento per il Monte dei Paschi, che come giustamente sottolinea lei non sono gratis, io non credo che in questo momento tra l'altro il governo li abbia, visto che non ha neanche i denari per supportare le fasce deboli della popolazione nei confronti dell'IMU sulla prima casa, perché già di tanto si parlerebbe. Ma oltre questo, con i 4 miliardi e una bonifica dell'area Ilva, a mio avviso di un ecomostro che rimarrebbe lì immobilizzato, non sarebbero sicuramente sufficienti. Ma anche quando anche vi fossero tutte queste risorse, che io sostanzialmente non riesco a vedere, noi avremmo comunque il collasso di un'economia fino al momento in cui non la si facesse ripartire. Quando invece, visto che i dati sulla qualità dell'ambiente eccetera decretano che sostanzialmente nel momento in cui si comincerà un percorso di bonifica e di ambientalizzazione, Taranto possa essere sicuramente una città normale, visto che in questo momento sembra che sia diventata la patria di tutti i mali, tra l'altro vuol dire anche i rapporti di Ecambiente eccetera non mi sembra che dicano esattamente le stesse cose, pur non sottacendo che un problema sicuramente c'è ed è importante e considerevole e quindi va tenuto nella sua completa considerazione. Quindi noi siamo assolutamente contrari alla chiusura dello stabilimento, siamo assolutamente favorevoli a quella legge che il governo ha emanato, quel decreto legge che è stato poi convertito in legge, perché riteniamo che in esso vi siano completamente esaustive le condizioni di garanzia per i cittadini e per la tutela della salute del lavoro. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Brevemente, Ligio Demitri, una risposta tanto a Maugeri quanto a Cesario, le cui osservazioni mi sembrano assai pertinenti. Come si fa a fermare lo stabilimento e poi pensare di poter rientrare sul mercato? È un po' strano. Fiderri a far notare che questa manovra è già stata fatta per quando ancora non si parlava di ambiente ma solo di problemi economici, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2010. Lo stabilimento Ilva si è quasi del tutto fermato per crisi di mercato, i lavoratori posti in cassa integrazione e gli spazi relativi allo stoccaggio realmente fini, non come sta succedendo oggi che l'azienda paventa anche il problema di dove mettere i coils e i semi lavorati perché non ci sono gli spazi per produrre nuovo materiale. Lo stabilimento è stato quasi portato alla fermata ed è ripartito quasi normalmente nel 2011, riaprendo commesse e ripartendo. Detto questo, se la famiglia Riva non è in grado di garantire i fondi per ambientalizzare, mettere a norma gli impianti e ripartire, basta che ce lo dica. E in quel caso deve, se è vero come ha dichiarato il governo, che l'Ilva è un sito di interesse nazionale, intervenga il governo a porre i finanziamenti necessari alla bonifica del sito, o anche come un prestito rivolto alla famiglia Riva per poter prima seguire gli impianti di bonifica e dopo ripartire. Il problema non è se i Riva o no hanno i soldi per gestire gli impianti, è la chiarezza su quello che si vuol fare. Dopodiché non è la famiglia Riva, lo faccia qualcun altro. Ma una volta che si è accertato il danno che quegli impianti provocano ad ambiente e salute di questa città, è impensabile riproporre il discorso continuiamo a produrre in questo muro fin quando non riusciamo a mettere a norma gli impianti. Ricordo che l'Ilva ha già tre atti d'intesa rivolti a questi cosi che ha sempre disatteso. Mi limito a notare, Dimitri, che uno stop dovuto alla congiuntura economica è decisamente diverso da uno stop forzato, perché lo stop dovuto alla congiuntura economica avviene in tutte le fabbriche del mondo di qualsiasi settore e naturalmente questo non crea problemi. Se invece il mercato magari ti e tu sei costretto a fermare la fabbrica, esci fuori dal mercato, cioè il ragionamento economico è lievemente diverso, no? Mi scusi, c'è anche una domanda da Mogheri. Dimitri giustamente sottolineava questi tre atti d'intesa sottoscritti dall'Ilva, ma con chi li aveva sottoscritti l'Ilva, Dimitri? Li aveva sottoscritti con la Regione Puglia e con gli enti locali. Tre atti che il giudice Todisco, e lì come dire sono d'accordo con lei, cita nell'ordinanza con cui poi si dà l'avvio a tutta questa tragica vicenda. Ecco, lì è inutile mettere, contrapporre continuamente il governo alla magistratura, perché questo è quello che emerge più plasticamente, ma dietro c'è un'inadempienza di 20 anni da parte degli enti locali, da parte di chi doveva gestire questo fenomeno. Voi dove eravate? A me piacerebbe sentire, al netto come dire, della sofferenza del popolo tarantino, del tasso di tumori, questo non lo nega ormai più nessuno, e nei fatti, però piacerebbe sentire anche un'autocritica dei tarantini che a un certo punto eleggono sindaco un certo Gianfranco Cito. Le ricorda qualcosa? Cito adesso nelle patrie galere per scontare una condanna per associazione mafiosa, per concorso esterno in associazione mafiosa. Era un telepredicatore che ha preso per i fondelli tutti i tarantini. Dopodiché il comune è andato in default nel 2005, è praticamente fallito. Non contento, il figlio di Cito, Mario, si presenta a queste ultime elezioni 2008 e la città era tappezzata da manifesti in cui il padre e il figlio, i due Cito, si abbracciavano e dicevano la scritta enorme a caratteri cubitali Cito. Ed è arrivato secondo alle elezioni il figlio di Cito, dopo Stefano, l'attuale sindaco, riconfermato. Ecco, forse c'è stato anche un errore di valutazione da parte dei cittadini e da parte delle amministrazioni locali in questi 20 anni, o no? Dimitri? Certamente, noi come cittadini non siamo esuli da colpe, quantomeno nella scelta dei nostri amministratori locali. Questo non significa che, siccome si è sbagliato fin oggi ad essere rappresentati da alcune persone, o fin oggi non si sono fatti i dovuti controlli, si debba continuare sulla strada già percorsa. Credo che la città di Taranto abbia dato in più occasioni nell'ultimo periodo segno di aver cambiato indirizzo. E per quanto riguarda invece il discorso dei controlli da parte degli enti pubblici, sono d'accordo con lei, ci sono stati pesanti mancanze da parte di chi avrebbe dovuto controllare che l'azienda effettivamente si attenesse ma Dimitri, mi perdoni, intervengo io qua, ma chi deve controllare è anche la cosiddetta società civile. E che cosa siete voi se non quello? Infatti la società civile vi ha risposto il 15 dicembre con una grande manifestazione in cui ha disconosciuto quello che è stato il lavoro fatto dagli enti locali e dal governo a sostegno della sua iniziativa privata e non della salute. Ha risposto questa volta, ha dato un grosso segnale, non ho capito. In passato abbiamo colpe perché non ci siamo espressi, adesso che ci esprimiamo dobbiamo star zitti, invece non ho capito dove si vuole arrivare. No, no, Dimitri, il popolo tarantino ha dato prova di grande sensibilità e maturità, perché sarebbero potute accadere delle cose ben più pesanti nel corso di questi mesi. Però io una lancia la spezzerei anche a favore di questa classe operaia, che ha una dignità, ha un senso del dovere, ha un'abnegazione fuori da ogni logica. Ricordiamoci che la democrazia esiste perché ci sono i grandi aggregati, tra cui il sindacato, classe operaia, gli imprenditori. Se si squagliano questi aggregati, caro Dimitri, va forse in crisi anche la democrazia, ed è quello che stiamo vivendo in questi anni. La fermo, Dimitri, sta già parlando abbastanza. Brevissimamente, 20 secondi, Giampaolo da Verona, buongiorno. Buongiorno, cercherò di essere brevissimo, ma mi riallaccio proprio al discorso che hanno fatto adesso. La cosa che sembra, a parte il discorso del sequestro del materiale, che bastava ne sequestrassero secondo me una parte per portarlo come prova, il resto poteva essere benissimo venduto, cioè il corpo del reato ce l'avevano. Ma poi la cosa che mi rende strano è che mi sembra impossibile che una famiglia come la famiglia Riva, che sono proprietari delle uniche acciaierie a impatto zero, che sembra che nel resto del mondo facciano sempre quello che non riescono a fare in Italia, deve esserci qualcosa che non funziona. Cioè, lei dice ci sono acciaierie in Europa ad impatto zero, come mai, insomma, no, questa è la sostanza. Noi però con questa domanda, sul tema Ilva ci torneremo perché continua ad essere caldo, con questa sua domanda chiudiamo. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Mariano Maugeri, Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, Eligio Demitri del Comitato Liberi e Pensanti. Buona giornata, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.